Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiamo subito dalle borse, perché anche questa volta, nonostante le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, nonostante il nuovo irrigidimento di Angela Merkel, nonostante le agenzie di rating, nonostante tutto, le borse vanno più che bene, più 2,20% Milano, più 1,70 a Parigi, più 0,70 a Francoforte, più 0,40 a Londra. Milano è tra le migliori, ma c'è un motivo: vanno benissimo oggi i titoli bancari, ma molto molto bene. UniCredit più 14%, rivede 3,4 euro per azione. Popolare di Milano 13,27% di rialzo. Banco Popolare più 11,36%. Mediobanca più 9,30%, Mediolanum più 6,80%, Intesa più 6,30%, UbiBanca più 5,90%, Popolare Emilia Romagna più 4,60, ebbene anche Tod's più 5,15. Anche l'euro è in netto rafforzamento, 1,28,87. Nel frattempo perde Snam meno 2,50%, qui c'è l'ipotesi dopo la bozza sulle liberalizzazioni e la dichiarazione di Mario Monti che si vada verso la separazione della rete gas, quindi Snam in questo momento ancora controllata da Eni, un po' sul modello di quanto è avvenuto per l'elettricità con Terna come società scollegata completamente da Enel, e poi invece perde in questo caso anche Terna l'1% ed Enel il 2,35%. Eni invece guadagna il 2,20%. Dicevo, euro a quota 1,28,87, quasi 1,29. Tra i temi che tratteremo, la rivolta dei forconi sta paralizzando la Sicilia, le accuse del Presidente del Consiglio di Sicilia di infiltrazioni mafiose dentro questo movimento. Dico subito che personalmente è giusto protestare, ci mancherebbe, in questo caso sono soprattutto gli autotrasportatori, oltre che i pescatori e gli agricoltori siciliani. Il prezzo della benzina record restringe, se non annulla, ogni margine di guadagno. Quello che personalmente piace un po' di meno è vedere che la protesta è sempre il blocco stradale contro Roma. Oddio, cioè esiste la Sicilia, è una regione autonoma, ne parleremo più avanti con lo stesso Ivan Lobello, potrebbe anche protestare contro Palermo. Cioè, il federalismo, almeno chi ce l'ha, visto che riceve i contributi di tutti gli altri italiani, Alto Adige, Friuli, Val d'Aosta, Sicilia, Sardegna, almeno lì, visto che avete una forma di federalismo, di autonomia, andate a protestare di fronte al palazzo della regione Sicilia, che è tanto generosa in alcune consulenze e nel numero dei deputati, nell'indennità, adesso ne raccontiamo qualcuna, ma forse potrebbe, come fanno altre regioni non a statuto autonomo, trovare dei soldi per mitigare, calmierare quello che è la pressione sul costo del carburante per gli autotrasportatori. Scusate, non è sempre colpa di Roma, e anche Lombardo, il presidente della regione Sicilia, battesse un colpo perché c'è un comunicato banale che dice: chiederò al governo di modificare il DDL sul commercio. Ho capito, ma tu cosa fai? I soldi li hai? Tirali fuori se li hai. Notizie in breve. Parleremo anche delle liberalizzazioni in generale, lo faremo con i benzinai che adesso hanno minacciato lo sciopero non contro le liberalizzazioni, ma contro la marcia indietro del governo nei confronti delle compagnie petrolifere, la FAIB, delle compagnie petrolifere, e dicono: voglievamo le liberalizzazioni di prima, per cui erano a favore, e questo mi sembra abbastanza interessante, erano a favore del primo progetto di liberalizzazione, quello che prevedeva, adesso ne parleremo, anche la non esclusività per il gestore rispetto alla compagnia, il poter vendere anche altre cose. Quindi è un caso interessante di sciopero minacciato a favore delle liberalizzazioni. E poi anche le altre, una per una le affronteremo tutte. Domani il Consiglio dei Ministri dovrà dare la bozza, il testo definitivo delle liberalizzazioni. La bozza è una bozza a 360 gradi da quello che si è capito, e quindi toccherà un po' tutti. Ci sono anche novità, oltre alla conferma di varie anticipazioni: arriva il conto corrente bancario di base con un calo dei costi di gestione, se si installa la scatola nera in auto i costi sono a carico delle assicurazioni, e che praticheranno anche uno sconto RC Auto. Liberalizzazione degli orari dei turni per le farmacie, abrogate tutte le tariffe professionali in modo che sarà resa libera la contrattazione, basta con questi minimi tariffari. E poi entro sei mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge sulla liberalizzazione il governo dovrà emanare un decreto per la separazione di Snam Rete Gas da Eni, un po' come è avvenuto nel caso della telefonia, un po' come è avvenuto anche nel caso dell'elettricità. Altre notizie in breve. Allora, per quello che riguarda il motivo delle, giustamente volete sapere perché le borse festeggiano così tanto, ci sono due motivi molto forti. Oggi la Spagna e la Francia hanno collocato obbligazioni, debito. 8 miliardi li ha collocati Parigi e 6 miliardi e 600 mila, scusatemi, e 4 miliardi e 500 milioni li ha collocati Madrid. Queste aste sono andate bene. All'inizio si temeva, era uscita una notizia che sembrava che insomma, la Francia non fosse riuscita a collocare tutti i suoi bot, in realtà non è così. Ha collocato 8 miliardi dopo il declassamento, cioè è la prima asta dopo il declassamento, e i rendimenti sono calati. Tutti in calo sulle scadenze 2014, 2015, 2016. Bene anche l'asta spagnola, che è riuscita a collocare più bot di quanto non avesse bisogno, 6 miliardi e 600 milioni. Il rendimento è sceso dal 6,9% di novembre al 5,4%. E anche i depositi a un giorno, quelli overnightmare, quelli che le banche europee mettono dentro la banca centrale e poi li riprendono un giorno dopo, sono calati di tanto, di 100 miliardi rispetto, 130 miliardi rispetto al record di dell'altro ieri, 528 miliardi il record, 395 miliardi depositati ieri notte, parcheggiati per appunto per la notte dalle banche europee dentro la banca centrale europea. E anche Mario Draghi oggi dice che si vedono segnali incoraggianti, bene le misure che abbiamo preso come Banca Centrale Europea, e poi chiede che l'Europa crei la sua agenzia di rating. A proposito di agenzia di rating, questa mattina ve l'hanno raccontato i nostri GR, la Guardia di Finanza ha compiuto verifiche nella sede milanese dell'agenzia di rating Standard & Poor's. Gli accertamenti riguardano l'inchiesta aperta dalla Procura di Trani, un'inchiesta che va avanti da tempo, in cui sostanzialmente Standard & Poor's e Moody's sarebbero accusate di aver manipolato il mercato con giudizi falsi, infondati o comunque imprudenti sul sistema economico, finanziario e bancario italiano. E la risposta di Standard & Poor's è una nota, dice: Standard & Poor's è sorpresa e costernata da tutte queste indagini sulle sue valutazioni indipendenti. Le accuse fatte sono del tutto prive di fondamento e senza merito, e con forza difenderemo le nostre azioni, la nostra reputazione e quella dei nostri analisti. Giusto ribadire da parte di Standard & Poor's insomma la posizione, una replica formale, dopodiché giustamente la Procura di Trani indaga a 360 gradi e vuole capire. Non collegherei questo ad altri ragionamenti fatti sulle agenzie di rating, ricordo solo ce l'abbiamo inside job sulle agenzie di rating, no, perché c'è un passaggio importante e non si riferisce a quello che non hanno saputo vedere nel 2008, si riferisce a quanto hanno guadagnato le agenzie di rating, ecco perché sono soggetti privati anche loro, non ci sono demi vierge o Virginelle, le agenzie di rating quanto hanno guadagnato nel periodo 2002-2006, se non vado, adesso lo recuperiamo. È interessante, eh? Interessante vedere quanto riesce a guadagnare dando i voti, quadruplicare i guadagni. Intanto il Fondo Monetario Internazionale prevede una lieve recessione per l'Italia, purtroppo anche nel 2012, ha aggiornato l'Outlook. L'Italia in recessione più forte del previsto quest'anno, meno 2,2%, pesante, eh? E, scusatemi, meno 0,6% anche nel 2013. Ricordo che due giorni fa Mario Draghi, come Presidente della Banca Centrale Europea, aveva stimato, a seconda dello spread, uno spread a 300, uscivamo dalla recessione a fine anno. Uno spread che si mantiene a 500, restavamo in recessione anche l'anno prossimo, e sempre Draghi oggi ha detto che l'economia dell'area euro può peggiorare. Ecco, l'abbiamo ritrovata, c'è un passaggio di questo film bellissimo, secondo me, che ha vinto anche l'Oscar come miglior documentario. Si chiama Inside Job, lo trovate ormai in videocassetta, ed è la storia, l'intervista ad alcuni economisti e analisti sul ruolo dell'agente di rating, mentre nella parte finale sentirete come si sono giustificati gli allora presidenti di Moody's, Standard & Poor's e Fitch di fronte al congresso, quando il congresso gli chiese: ma insomma, voi non avevate visto nulla prima, non sapevate che c'erano troppi strumenti a leva, troppi strumenti tossici, che le banche rischiavano di saltare, che Fannie Mae, Freddie Mac le abbiamo dovute salvare con i soldi dei contribuenti americani? La risposta è bellissima. Le tre agenzie di rating, Moody's, Standard & Poor's e Fitch, guadagnarono miliardi dando il massimo dei voti a titoli rischiosi. Moody's, la più grande agenzia di rating, quadruplicò i suoi profitti tra il 2002 e il 2007. La Moody's e la Standard & Poor's venivano ricompensate sulle basi dei rating che davano, e più AAA davano, più alti erano i guadagni per la società. Immaginate di andare al New York Times e di dire: se mi scrivete un articolo positivo vi pago $500,000, se non lo fate non vi do niente. Le agenzie di rating avrebbero potuto interrompere la festa e dire: ci dispiace, dovremmo alzare i nostri standard, e tagliare immediatamente il flusso di finanziamenti verso mutuatari rischiosi. Gli strumenti valutati con la AAA passarono da una manciata a migliaia e migliaia. Centinaia di miliardi di dollari venivano valutati ogni anno? Ogni anno, sì. Ho testimoniato di fronte al Congresso e alla Camera dei rappresentanti sul problema delle agenzie di rating. Ed entrambe le volte i loro avvocati hanno tirato in ballo il primo emendamento, rivendicando il fatto che il loro giudizio di AAA era solo la loro opinione e che le persone non dovevano basarsi solo su di essa. I rating esprimono un'opinione. I nostri rating sono la nostra opinione. Opinioni. Opinioni non sono altro che opinioni. Credo che abbiamo enfatizzato il fatto che i nostri rating sono opinioni. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. E allora, giustamente dice l'ascoltatore, ma insomma, però attenzione, se la maestra dà il voto ci sarà anche una colpa dello studente. Ma ci mancherebbe, il debito italiano è sotto gli occhi di tutti, l'attacco al debito, le incertezze sono sotto gli occhi di tutti. Però come mai lo scoprono adesso? Come mai perdiamo la AAA adesso? Solo per lo spread? E ancora, giusto il ragionamento sulla maestra, ma attenzione, se poi la maestra che dà un brutto voto a tuo figlio ti consiglia dopo di andare dalle ripetizioni, qualche sospetto ti viene. Raccontiamo allora di nuovo questa crisi, e chiudo la parte sulle agenzie di rating con alcune notizie che riguardano in questo caso il Sud. Poi arriveremo anche alla regione Sicilia, notizie che insomma ci lasciano sempre molto perplessi, perché è successa una cosa incredibile. A Catanzaro sono abbandonati negli uffici della Procura della Repubblica 38 computer perché manca il contratto di assistenza tecnica. I computer giunti da diverso tempo negli uffici della Procura di Catanzaro non sono mai stati installati proprio a causa del mancato contratto, e a questo punto iniziano anche a subire danni. Tutto questo mentre i soldi per i computer alla Procura di Catanzaro non ci sono, ma vi pubblichiamo anche la tabella di chi guadagna di più tra i consiglieri regionali. Abbiamo fatto i presidenti delle province, delle regioni. Allora, sono i consiglieri sardi i più ricchi. Pensate, indennità mensile di 11.417 euro. E poi i calabresi, 11.300 euro. E poi i campani, 11.126 euro. E poi sulle diarie si va dalla Sardegna, appunto, 11.417, Calabria seconda, Campania terza, Sicilia quarta. Allora, quando i siciliani, i calabresi, i campani e i sardi protestassero contro il governo nazionale, ma anche contro il loro governo regionale, soprattutto sardi e siciliani, visto che sono anche regioni autonome. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. E adesso, prima di venire alla liberalizzazione, vorrei affrontare un tema ogni volta tanto positivo, perché in questa crisi pesante, pesantissima, ci sono dei buoni dati che arrivano, per esempio, dal nostro export. E arrivano, per esempio, anche da uno dei settori trainanti del Made in Italy, perché resta, e mi riferisco al settore moda, tessile e abbigliamento. Eh sì, parliamo di moda, ma parliamo anche di un tema che spesso evochiamo, non riusciamo, vista poi la cronaca, ad approfondire, cioè l'Europa non cresce, non crescerà. Quest'anno va in recessione come era l'euro, ma crescerà poco comunque. L'America sta uscendo con difficoltà, speriamo, da questa lunga stagnazione barra recessione. C'è un mondo però che continua a crescere, ce lo dicono i gestori di fondi, ce lo dicono gli imprenditori, un mondo che cresce a una barra due cifre, che si chiama nella parte vicina Turchia e Russia, ma si chiama nella parte più lontana Cina, India e anche soprattutto Brasile. Più volte abbiamo detto che le imprese italiane devono aggregarsi, siccome le dimensioni non giocano a loro favore, le nostre dimensioni sono troppo piccole, devono aggregarsi, devono trovare il modo per andare in mercati che, essendo più lontani, hanno costi più alti, sono mercati più grandi. Un conto è andare in Germania, che è vicina e ha qualche decina di milioni di abitanti in più rispetto all'Italia, altra cosa è andare in India o in Brasile. Ecco perché con piacere mi collego con San Paolo, dove si sta tenendo la seconda edizione del San Paolo Prêt-à-Porter, è chiaramente moda, che è il calendario degli eventi moda in Brasile. Ma la cosa che saluto con più favore è che c'è una delegazione italiana importante che ha lanciato un progetto, che adesso racconteremo, coordinato dal Sistema Moda Italia. Il Sistema Moda Italia è una delle più grandi organizzazioni al mondo che rappresenta gli industriali del tessile e della moda. Sono 60.000 aziende per oltre mezzo milione di addetti. L'Italia, sappiamo che ha in tutto 700.000 occupati, 80.000 imprese e 62 miliardi di euro di fatturato dal tessile abbigliamento nel 2011. Siamo in collegamento con San Paolo, con il vicepresidente del Sistema Moda Italia, Paolo Bastianello. Buonasera innanzitutto. Buonasera a lei, dottor Marigioni, grazie. Buongiorno, visto l'orario. Allora, il mercato brasiliano è con il cinese, l'indiano, quello dove, il russo, voi avete fatto tante altre missioni, quello su cui puntare. Se ne parla un po' di meno perché la Cina fa paura e poi già siamo presenti lì. È un mercato molto protetto però, lei come l'ha trovato? Perché ha dei dazi di Brasile altissimi, il segreto di Lula è stato proprio quello di utilizzare i dazi da un lato e gli investimenti esteri dall'altro. Prego, Bastianello. È sicuramente il lato più negativo di questo meraviglioso paese che sta crescendo a ritmi vertiginosi. La superprotezione che hanno creato certamente non ci agevola, ma in questi giorni di fiera un dato che mi ha confortato per le nostre aziende italiane è che hanno comunque il 60% di importazione di capi di abbigliamento dalla Cina. Allora, se riusciamo, e uno degli scopi di questa missione è far capire che la Cina non si combatte ma si affronta alzando il livello qualitativo della produzione per le aziende italiane, il livello qualitativo dei nostri capi per le aziende italiane, sicuramente ci sono ampi spazi in questo mercato. Cioè il 60% del tessile abbigliamento brasiliano arriva dalla Cina? Esatto, e quindi per noi non deve essere presa come una specie di minaccia, l'abbiamo già affrontata in Italia, e adesso lei sa che le aziende italiane stanno esportando moltissimo in Cina, che sì, è diventato il nostro forse primo mercato. dobbiamo tenere alto sempre un discorso di qualità e tutte le cose note, la creatività, lo stile e il gusto che i nostri prodotti hanno, perché comunque, anche per fare una notizia positiva e sempre di grande ottimismo, è sempre il nostro modo di vivere, di vestire, di mangiare, di bere, è sempre un aspetto estremamente positivo che gli altri paesi non hanno. Sì, al di là dei danni che riusciamo a fare all'immagine dell'Italia all'estero, mi riferisco a danni politici e danni anche, come abbiamo raccontato, ahimè, di questa tragica vicenda, ma non c'entra nulla della Costa Concordia, insomma, cioè, ogni tanto questo paese riesce a farsi male molto più di quanto non riescono a farci male altri concorrenti, si fa male da solo. Però chiudo questa parentesi, il dato buono sul Brasile riguarda il nostro export complessivo, perché pensate che l'ultimo dato che abbiamo è riferito all'estate, cioè i primi 7 mesi del 2011, l'export italiano verso il Brasile ha fatto più 23%, quindi vuol dire che l'Italia non solo c'è, ma aumenta il suo posizionamento. Nei vari incontri che lei ha avuto, perché c'è una delegazione di imprese italiane in questa fiera, San Paolo tra l'altro è la capitale finanziaria, tutti parlano di Rio, ma insomma i soldi si fanno a San Paolo in Brasile, oltre che essere della borsa. La cosa che più l'ha sorpresa in questi incontri che avete avuto B2B è dove vede maggiori margini di crescita per imprese del tessile e abbigliamento italiane in Brasile. I margini di crescita direi che sono su tutta la filiera, sia dal cosiddetto monte, quindi dai tessuti, che in quei numeri che lei ha detto rappresentano la percentuale più alta di esportazione di tessuti italiani in Brasile, ma anche il mondo della donna, dell'uomo e del bambino, perché c'è un grandissimo apprezzamento della nostra qualità. Non dimentichiamoci mai che su 200 milioni di brasiliani 35 sono di oriundi italiani, quindi è anche più facile far capire le qualità del nostro prodotto. Quindi l'aria è sicuramente positiva, dobbiamo insistere, ecco, rispetto al passato non possiamo venire più una volta ogni tanto e poi pensare di fare gli ordini, perché la concorrenza è molto forte, sia francese che tedesca che turca, oltre che la cinese, e dobbiamo insistere. Adesso per fortuna abbiamo anche di nuovo le nostre strutture commerciali, con la rinascita dell'ICE, che qui lavora molto bene, e quindi è un trampolino soprattutto per le piccole e medie aziende che io sto cercando da anni di portare in questo meraviglioso paese. Ecco, chiudiamo su questo, perché lei diceva, le strutture istituzionali spesso, seguendo anche le varie missioni di Confindustria in giro per il mondo, noi abbiamo lamentato, in alcuni casi funzionava bene, mi riferisco all'ICE, in altri casi funzionava male, spesso il paese aveva difficoltà a presentarsi con i ministri giusti, con la forza politica, la pressione che hanno altri paesi, però anche sul fronte delle imprese, come lei diceva, non funziona più il mordi e fuggi, vengo, faccio gli ordinativi, poi mi ripresento fra un anno e mezzo o due. Che cosa pensate di lasciare poi come testa di ponte, come antenna nel mercato brasiliano, che permetta poi ai piccoli, che sono quelli che hanno la maggiore difficoltà, di mantenere un rapporto continuativo? Noi abbiamo lasciato qui, abbiamo già lanciato con i colleghi dell'ABIF, che è la Federazione della Moda Brasiliana, e anche con le istituzioni, un progetto che è quello di mettere in rete le piccole e medie aziende italiane dell'intera filiera e insieme con il supporto del credito e quant'altro di poter venire qui, incontrare previa selezione colleghi brasiliani, per cui iniziare a discutere le possibilità o di distribuire o di produrre, dando quel valore aggiunto di qualità che in questo momento a loro manca e che la moda italiana a 360 gradi può dare. Ma mi scusi, l'associazione della moda brasiliana si chiama ABI? ABIT. Ecco, no, perché mi veniva una battuta, meglio l'abito o l'abi, che invece. Ma proprio sul tema delle banche, quali banche vi assisteranno, italiane o brasiliane? Sicuramente le nostre banche italiane, se non vorrei fare dei nomi, sono già state attivate, ma in questo preciso momento noi siamo in conferenza stampa con tutte le istituzioni italiane, dal console all'ICE e al sistema bancario italiano, che qui a San Paolo ha degli uffici di rappresentanza, proprio per dare un'idea di sistema paese bene, che si muove bene, razionalmente. Questa è una cosa molto, molto positiva. E posso dire che come sistema moda abbiamo già iniziato, va detto, con Banca Intesa, dei progetti per paese, quindi il Brasile, la Cina, la Russia, su cui andremo a operare. Beh, in bocca al lupo a lei, ma soprattutto a tutte le 60.000 aziende che il Sistema Moda Italia rappresenta. Quando sento che l'Italia si presenta con l'ICE, con le banche, con le imprese, cioè si presenta come un paese, godo, ognuno gode di quello che può, io godo per queste cose qui, perché troppe volte abbiamo visto presentarsi in ordine sparso anche le istituzioni, non parliamo poi delle missioni della speranza delle regioni che andavano a trattare la regione X con l'intero continente Cina. Grazie e di nuovo in bocca al lupo al vicepresidente del Sistema Moda Italia Paolo Bastianello in collegamento con noi da San Paolo. Grazie a voi tutti, grazie. Sì, c'è chi scrive, ma insomma, soliti discorsi, uso un altro termine, solite cavolate, intanto siamo sempre più nella, diciamo, nella cioccolata o quella che gli assomiglia. No, ma guardi che non è così, in realtà è chiaro che la situazione complessiva oggi, il Fondo Monetario ha detto che la recessione in Italia sarà più pesante delle attese, meno 2,2, con un rischio che ci sia anche nel 2013. Nessuno sta edulcorando la pillola. Però quando si vede un più 23% di export in Brasile, va bene anche quello in Cina, e si vede la capacità poi delle imprese di andare su questi mercati, non è un problema di delocalizzazione come scrivono alcuni, il problema è che quelli crescono e noi no, e un'impresa deve andare a vendere dove ci sono tassi di crescita, abbiate pazienza, e che se poi deve anche produrre delle da lì, anche quello andrà, ma intanto deve andare a vendere lì, dove vende? In Italia? Meteo, pubblicità, poi torniamo invece ai temi meno, così, meno positivi della giornata, e mi riferisco a quello che sta capitando sulle liberalizzazioni da un lato e poi a questa protesta siciliana, anche qui è un diritto lo sciopero. Il problema, quello che non mi piace di questa protesta è che sembra la classica cosa, ti blocco le strade finché da Roma non mi mandi giù il finanziamento. Qualche responsabilità la si può anche, ma perché non assediano il palazzo della Regione Sicilia per esempio, così? Come idea, facessero un blocco davanti a Lombardo che ha detto chiederò al governo di cambiare il DL, capirai. Allora, le liberalizzazioni, novità su tassisti, vedo che la situazione è ancora in alto mare, ci sono delle novità su altri fronti, ma insomma abbiamo una prima bozza del decreto su tutti gli aspetti delle liberalizzazioni, e quindi scatola nera in auto, i cui costi sarebbero a carico delle compagnie d'assicurazione, permetterebbe di abbassare il prezzo delle RC auto, liberalizzazione degli orari dei turni delle farmacie, abrogate tutte le tariffe professionali e per rendere libera la contrattazione, quindi avvocati, ingegneri e quant'altro, entro 6 mesi anche un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la separazione di Snam Rete Gas da Eni, in modo che la rete su cui viaggia il gas non appartenga a il principale operatore che deve trasportarvi sopra il gas, e ancora le altre previste. Però c'è una cosa che ci ha lasciato molto una sorpresa. Sui taxi abbiamo adesso l'agenzia appena uscita. Chi aveva dichiarato originariamente lo sciopero, e quindi Figisc e Anisa, Confcommercio, ha detto che ha revocato lo sciopero. Perché hanno, secondo le indiscrezioni, i punti del decreto da loro osteggiati, come l'eliminazione dell'esclusiva per i gestori, sarebbero stati eliminati. E invece va in sciopero, minaccia lo sciopero, chi era a favore delle liberalizzazioni, sempre nel settore dei distributori di benzina. Taxi, chiaramente devo benzinai. Questa è la situazione paradossale. Presidente Martino Landi, presidente del FAIB, che è la Federazione Italiana Benzinai, della Confesercenti, 10.000 associati, tra l'altro la più rappresentativa del settore. Buonasera. Buonasera. Cioè, voi avete minacciato uno sciopero perché il decreto, perché il governo ha modificato il decreto sulle liberalizzazioni ed è tornato indietro, secondo voi. Quindi è uno sciopero pro liberalizzazioni, ho capito bene? No, è uno sciopero che non interviene sulla liberalizzazione, così come le annunciate liberalizzazioni fatte dagli altri governi in 15 anni a questa parte, che non hanno prodotto nessun effetto. Questa è l'ennesima falsa liberalizzazione che non porta nessun risultato a beneficio dei consumatori. Ecco, noi ci siamo pronunciati 2 giorni fa a favore della bozza che era uscita 2 giorni fa, proprio perché si pensava che con quegli interventi, noi siamo convinti con gli interventi che erano inseriti in quella bozza, si riuscisse a incidere nella filiera della distribuzione. Quei punti che lei sosteneva, la superamento dell'esclusiva a carico del 90% dei gestori italiani, poteva consentire comunque di approvvigionarsi sul mercato libero alle migliori condizioni, e le migliori condizioni poi potevano essere riversate al consumatore e quindi favorire un abbassamento del prezzo. Purtroppo la pressione dei petrolieri, la lobby ancora prevalso sul buonsenso, e il governo secondo noi ha fatto marcia indietro, e quindi questa ulteriore bozza che circola in queste ore secondo noi non produrrà quegli effetti che voi invece vi auspicavate. E quindi io ho sintetizzato dicendo che voi avete minacciato lo sciopero. Io l'ho chiamato pro liberalizzazione, cioè siete arrabbiati perché il governo è tornato indietro. Che cosa prevedeva la prima bozza sui distributori di benzina? Che almeno un terzo delle stazioni di distribuzione di proprietà delle compagnie venisse ceduta, cioè quelle con marchio Esso, Total, Agip, a nuovi imprenditori o a consorzi di attuali gestori. Esatto. E poi la possibilità che per il gestore... la possibilità per il gestore di acquistare almeno il 20% del carburante da qualunque fornitore, sì. Da qualunque fornitore, e aspettando che c'è un problema in regia, c'è qualcosa che non va? No, da qualunque fornitore, e dunque niente più contratti in esclusiva, e di poter vendere anche altri prodotti nelle stazioni, quindi come fanno altre stazioni dal punto di vista nel resto d'Europa. Ecco, perché non vi convincono questa marcia indietro? Che cosa potevate ottenere secondo lei dalla prima versione della bozza? Intanto la prima versione della bozza consentiva una interruzione della filiera nella sua rigidità con cui oggi è presente sul mercato. Oggi noi abbiamo le compagnie petrolifere che hanno in mano tutti i processi della distribuzione, dalla estrazione del greggio, dalla raffinazione, dallo stoccaggio, fino alla logistica e alla distribuzione finale. Gli stessi soggetti che estraggono sono i soggetti che determinano il prezzo di vendita. È una stortura, è un'anomalia dettata dal fatto che questi soggetti determinano il prezzo finale proprio perché hanno in mano tutta la filiera. Noi da tanto tempo facciamo presente questo fatto, e l'interruzione della filiera andava nella direzione giusta con la bozza presentata due giorni fa. Sì, questa interruzione, questa possibilità, con la pressione che è stata fatta in queste ultime ore dai petrolieri, il governo secondo noi ha fatto marcia indietro, e quindi questo non consentirà ai consumatori di avere di usufruire un prezzo più basso, perché i gestori carburanti, che in Italia oggi sono 25.000, sono costretti a praticare un prezzo verso i consumatori che è rigido e dettato dalle compagnie petrolifere. Allora, peccato, perché mi sono d'accordo con chi scrive che il governo tecnico deve avere più coraggio, sì, anche perché non sei elettorale, voglio dire, te ne puoi fregare bellamente delle varie categorie dei corpi elettorali perché sei tecnico e abbi un po' più di coraggio, e mamma mia, per il 20% di carburante da qualunque fornitore non ci trovo nulla di strano. So che i vostri colleghi della Confcommercio dicevano in questo modo vedrete il ricatto delle compagnie petrolifere. Vediamolo intanto. Guardi. Le mani avanti prima. No, il ragionamento era in questo modo le compagnie petrolifere diranno o tu la prendi tutta da me o se no il prossimo giro. Vediamo se hanno la forza le compagnie petrolifere di imporre nonostante tutto il monopolio. E anche lì la vendita di un terzo delle stazioni mi sembrava un modo anche per uscire da questo legame compagnia petrolifera, distributore di benzina, e facciamo la filiera veramente, vediamo cosa succede. E poi vediamo, magari non cambia niente, ma intanto ci abbiamo provato, non lo so. Ma vogliamo liberalizzare, allora che sia libero su tutto, non può essere libero a senso unico solo sulle cose che interessano, no? se vogliamo liberalizzare dobbiamo avere il coraggio di slegare. Ma voi farete lo sciopero a questo punto? Ma guardi, ora vediamo un attimo come esce questa bozza, come esce questo decreto, perché chiaramente lei deve sapere che negli ultimi 7 giorni sono circolate, sono cambiate le bozze mediamente una al giorno, quindi il Consiglio dei Ministri ci sarà domani, non lo so cosa può succedere di qui a domani, c'è sempre voi. No, ma mi interessava perché mi interessava perché uno sciopero minacciato a favore delle liberalizzazioni ancora non l'avevamo visto. Ma guardi, siamo gli unici, l'unica categoria che è a favore delle liberalizzazioni, ma le vere liberalizzazioni, non le finte liberalizzazioni. Questo è il cioè dobbiamo avere il coraggio di mettere veramente le mani dove chi fino ad oggi non ha avuto il coraggio di mettercele, perché lei deve sapere che l'obbligo di esclusiva che hanno i gestori cioè coinvolge il 95% dei punti vendita. Allora, certo. dove non c'è l'obbligo di esclusiva, cioè quel misero 5-8%, là si vedono i risultati, perché come tutti voi saprete e come oggi viene giustamente anche sbandierato, il prezzo più vantaggioso lo trovi là dove non c'è il marchio, dove non c'è nella grande distribuzione o alle pompe bianche. Allora, noi siamo i soggetti coinvolti in questo anello della distribuzione. Siamo oltre 20.000. No, ma insomma, è chiaro il discorso, insomma, se la benzina costa meno laddove non c'è un marchio della compagnia petrolifera, liberalizziamo e rendiamo possibile questo a tutti. Io guardi, su questo non so cos'altro dirle, spero che tiri fuori un po' di coraggio domani Monti in Consiglio dei Ministri su queste liberalizzazioni, il balletto. Tanto, ripeto, non avete un corpo elettorale, siete ministri tecnici, non avete da difendere i commercianti piuttosto che gli statali, piuttosto che i pensionati, piuttosto che quelli del nord, quelli del sud. Fate le riforme, perché tanto, voglio dire, questo dovrebbe essere l'unico vantaggio di un governo tecnico, quindi non eletto da un punto di vista democratico e quindi con normali elezioni, ma almeno con la forza di non essere ricattato dalle solite lobby. Grazie, adesso la borsa. Ancora più 2,45%, benissimo Milano oggi, ma bene anche Parigi più 2%, Francoforte più 1, Londra più 0,70. Insomma, nonostante l'allarme del Fondo Monetario Internazionale, i timori delle varie organizzazioni, le agenzie di rating, Standard & Poor's, se continua così converrà a dire daccene un altro di abbassamento, che i mercati vanno bene, abbassaci il rating di nuovo, Standard & Poor's, più 17%, 17,6% la Popolare di Milano, più 13,80% il Banco Popolare, più 12,90% Unicredit, più 9,40% Mediobanca, più 7,50% Mediolanum, più 6,20% UbiBanca, più 6,20% Intesa San Paolo, più 5,30% la Popolare Emilia Romagna, Monte dei Paschi più 3,5%. Chi perde? Enel meno 2,20%, Snam meno 2,20%, Diassori meno 1,5%, Terna meno 0,80%, Campari meno 0,60%. Le liberalizzazioni c'entrano anche nella borsa, soprattutto su Snam in questo caso, ed Eni invece guadagna oggi, però attenzione, Eni guadagna il 3% nel finale. Guido Maurino, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Allora, Eni e Snam. Sì, per quello che riguarda Snam Rete Gas sono le indiscrezioni sul decreto per le liberalizzazioni che sarà discusso domani al Consiglio dei Ministri. Per Snam si va verso una separazione da Eni, questo vuol dire che nell'immediato la notizia è positiva per Eni, che incassa per il suo 52% di Snam Rete Gas. Gli analisti calcolano che potrebbe fruttare questa cessione attorno ai 7 miliardi. E invece negativa per Snam Rete Gas, perché vorrebbe dire sostanzialmente avere un'offerta di azioni sul mercato, e questo, come succede di solito su queste operazioni, vuol dire che nell'immediato per Snam è una cattiva notizia, oggi si è visto. Anche Enel e Terna in qualche modo sono coinvolte dal decreto liberalizzazioni. Sì, diciamo che oggi sono andati male un po' tutti quelli che tutti i settori che sono soggetti a tariffe e che quindi rischiano di essere penalizzati. Vale per Enel meno 2,22%, vale per il settore autostradale con Atlantia, che comunque è rimasta debole, meno 0,17%. Diciamo, sono i settori regolamentati sono quelli che, stando alle indiscrezioni, sono quelli che dovrebbero avere più da perdere dal decreto liberalizzazioni, e oggi sono stati quelli più venduti. Ancora le aste, i titoli di Stato francesi e spagnoli bene sono andate, molto bene nel caso spagnolo. Chiudiamo l'approfondimento di borsa e poi passiamo alla protesta siciliana che ha bloccato, sta bloccando l'economia dell'intera isola. Allora, Guido Maurino, dicevamo bene, molto bene, lo ricordava anche il nostro GR, aste francesi e spagnole e gli spread in calo, festeggiano in maniera, devo dire, fortissima, quasi in attesa, la Pop Milano più 17,6, Banco Popolare più 13,80, Unicredito più 12,90, Mediobanca più 9,40, Mediolanum più 7,60, Intesa San Paolo più 6,20, Popolare Emilia Romagna più 5,30%, alla faccia di Standard & Poor's. Prego. Sì, sono andate bene tutte le banche, anche perché oltre alle ragioni che citavi già tu sull'asta, sono andati bene i conti del quarto trimestre per i colossi americani Morgan Stanley e Bank of America, che Morgan Stanley ha chiuso il quarto trimestre con una perdita di 252 milioni, ma comunque meglio delle attese. Bank of America invece ha realizzato un utile di 2 miliardi nell'ultima parte dell'anno. Per quello che riguarda Unicredit, che è stata un po' la protagonista per tutta la giornata, arrivando anche vicino a rialzi attorno al 15% prima di cedere leggermente sul finale, continuano a essere i vari movimenti nel capitale ad alimentare gli acquisti. Oggi è emerso dalle comunicazioni di Consob che un fondo è entrato con il 2,5%, una notizia che si aggiunge a quella con cui il fondo di Abu Dhabi a Bar l'altro giorno aveva annunciato l'intenzione di salire al 6,5%, tutte cose che richiamano attenzione sul titolo. Il Banco Popolare più 13,81%, invece c'è la questione di come far fronte alle richieste dell'autorità bancaria europea, l'EBA. L'istituto anche oggi ha ribadito che non farà un aumento di capitale e domani presenterà il suo piano di rafforzamento patrimoniale direttamente a Banca d'Italia. Ancora un titolo invece, Fondiaria Sai, perché qui insomma molte le polemiche dicono che insomma le banche hanno fatto l'operazione di salvataggio perché c'era di mezzo Mediobanca che avrebbe avuto una svalutazione pesante, c'è chi dice fino a un miliardo. Mediobanca fa più 9,40% in borsa ed è tra i migliori titoli in assoluto, oltre alla Popolare di Milano che ricordavo, e poi confermato il voto però su Fondiaria Sai, che in borsa si è mossa bene. Sì, in borsa si è mossa bene perché ha guadagnato il 5,78%. Oggi Standard & Poor's ha confermato il giudizio, anche perché insomma la prospettiva di un'aggregazione con Unipol, se mette qualche rischio per Unipol dal punto di vista di Standard & Poor's, invece tenderebbe a rafforzare Fondiaria Sai, che è l'anello debole della vicenda. Ricordiamo comunque che Standard & Poor's ha confermato un rating B, quindi già un rating speculativo per la compagnia assicurativa. Grazie a Guido Maurino, Radio Core, Il Sole 24 Ore. E adesso noi invece ci spostiamo sul quarto giorno di sciopero in Sicilia, proclamato dal movimento Forza d'Urto, che raccoglie appunto gli autotrasportatori aderenti all'AIAS, il movimento dei forconi e quindi gli agricoltori siciliani e i pescatori. Bloccate strade, ferrovie, porti contro l'aumento del prezzo dei carburanti e delle tariffe autostradali. Riascoltiamo il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, che descrive, ci ha descritto oggi la difficilissima situazione. La situazione è la seguente: non c'è più carburante nei vari distributori di benzina. Nelle giornate di ieri e dell'altro ieri c'erano file chilometriche per riuscire ad arrivare ai distributori di carburante. Per quanto riguarda invece il presunto assalto ai supermercati, mi sento di dire che si è registrata un andamento come nei momenti di festa, però non vedo atteggiamenti di panico. Ritengo che chiaramente l'azione che è stata posta in essere dal punto di vista sociale ha una sua assoluta validità. Qua dalle nostre parti, così come nel resto del paese, ma dalle nostre parti non si riesce, tra virgolette, a campare più. Così appunto il sindaco di Agrigento, e poi la polemica che è montata sulle dichiarazioni del presidente di Confindustria Sicilia, E le dichiarazioni di Ivan Lobello, nostro ospite molte volte, anche perché in prima linea, come tutta la Confindustria siciliana, nei confronti della norma, l'espulsione dell'industriale che pagasse il pizzo dalla Confindustria. Ivan Lobello aveva dichiarato in un articolo di oggi, poi anche questa mattina di ieri, in alcune dichiarazioni stampa: attenzione, ci sono dei mafiosi tra i manifestanti, per la precisione tra gli agricoltori e gli autotrasportatori, che stanno creando notevoli danni al sistema imprenditoriale. Abbiamo rilevato direttamente e attraverso i nostri associati la presenza di personaggi legati alla criminalità organizzata. E poi anche una certificazione che la situazione stava peggiorando. Forte la risposta del movimento dei forconi da un lato, e del comitato Forza d'Urto. Chiede il comitato a Lobello se gli industriali siciliani, oltre a denunciare, contribuissero a questa lotta, se ci aiutassero a cacciare la mafia, diventerebbe una lotta di tutti. E poi Martino Morsello, uno dei rappresentanti dei forconi di Palermo: sono gravi le dichiarazioni da parte di Confindustria Sicilia, per questo inizio lo sciopero della fame. C'è una campagna denigratoria del presidente degli industriali siciliani Ivan Lobello contro il nostro movimento, dove parlano di infiltrazione di mafia dietro appunto il movimento dei forconi. Facciano i nomi e dimostrino quanto da loro dichiarato. E poi chiude dicendo: si assumono la grave responsabilità di simili infamanti accuse. Allora, è in collegamento con noi il presidente Confindustria Sicilia, Ivan Lobello. Buonasera, presidente. Buonasera a voi. Abbiamo sentito le ragioni dei manifestanti, i motivi, la preoccupazione del sindaco di Agrigento. Una risposta me la vuole dare però a Martino Morsello. Insomma, voi volete infamare il movimento? No, guardi, noi cerchiamo di preservare un movimento di cui non condividiamo gli scopi da possibili infiltrazioni mafiose. Morsello non mi conosce, o forse ha seguito poco Confindustria, sa che noi non lanciamo allarmi ingiustificati. Se ho ritenuto di fare quelle valutazioni, perché queste valutazioni si basano su evidenze, non su congetture. Evidenze che sono emerse in alcune manifestazioni, in alcuni blocchi effettuati durante queste manifestazioni. E siccome riteniamo che il movimento non sia un movimento egemonizzato dalla mafia, abbiamo ritenuto di lanciare un allarme nell'interesse stesso del movimento. Quindi mi sembra veramente strano la reazione del movimento. Io credo che loro abbiano interesse a non cadere nelle grinfie delle cosche mafiose. Noi ci siamo accorti di queste infiltrazioni, mi stupisce che gli esponenti del movimento non se ne siano accorti nella loro capacità operativa. Continueremo a farlo. Lungi da noi pensare di comprimere le manifestazioni. Sappiamo benissimo che oggi in Sicilia c'è una situazione e un disagio economico e sociale veramente drammatico. Noi lo diciamo da anni, i forconi si sono svegliati da qualche settimana. È una situazione drammatica, forte, e nei confronti del disagio di tante persone, della disoccupazione di tanti giovani, noi abbiamo il massimo rispetto. Certo, quello che non condividiamo sono le modalità della manifestazione e l'effetto di questa manifestazione. Cioè, una protesta contro il governo nazionale si sta determinando unicamente un danno rilevantissimo per l'economia siciliana. Noi abbiamo aziende che non producono da tempo, che quindi hanno perso denari per aumentare la produzione, aziende specialmente nel settore agroalimentare ed agricolo che vendono e commercializzano prodotti deperibili che dovranno buttare al macero con grandissime perdite e denari nei confronti delle strutture distributive a cui dovevano essere consegnati. Quindi l'effetto di questa protesta, ripeto, contro il governo nazionale è un danno micidiale per la Sicilia in una congiuntura economica complessa come quella che stiamo vivendo. Ho capito benissimo la vostra posizione, mi dica però una cosa, poi veniamo anche alla protesta in sé, ma voi le fonti che vi hanno parlato di infiltrazione mafiosa, cioè dove le avete ottenute, senza che me le rilevi, diciamo nome e cognome, ma insomma di questo siete certi? Siamo certi, sì. Non mi vuole dire dove? No, queste cose le riferiremo dopo aver fatto una rassegna più ampia anche di altri casi che ci sono stati suggeriti e che non abbiamo ancora verificato. Li comunicheremo alle competenti autorità giudiziarie. Va bene, adesso il traffico, poi veniamo anche ai temi della protesta e alla modalità. Protestare è un diritto, ci mancherebbe. Mi lascia molto perplesso, lo dico subito, il fatto che la richiesta sia sempre verso Roma, dateci soldi, e verso Palermo, verso la regione siciliana, che tanti soldi ha, delle volte sprecato in consulenze, indennità diarie. Ma al di là delle infiltrazioni mafiose, vorrei concentrarmi sul movimento che nasce per il prezzo del carburante per gli autotrasportatori, che strangola l'autotrasporto. Tutto comprensibile. Tra l'altro, siccome però è tutto rivolto verso Roma, questo movimento, verso il governo, e il presidente Lombardo se ne è uscito con una dichiarazione: chiederemo al governo di cambiare il DDL sui consumi. Io faccio notare che in Sicilia, perché anche la regione può fare qualcosa, in altre regioni, quella poi è a statuto autonomo, per cui ha maggiore autonomia, maggiore margine di manovra. In Sicilia ci sono nella regione oltre 19.000 dipendenti. Praticamente ognuno costa in media, ogni dipendente della regione Sicilia costa in media 43.000 euro l'anno, il 40% in più dei ministeri a Roma. Il presidente della regione Sicilia Lombardo guadagna al netto il doppio dei 7.780 euro lordi che prende in media un governatore di uno stato americano. Allora sentiamo comunque questa mattina Franco Crupi, intervenuto dal nostro Alessandro Milan, 24 Mattino, è uno dei leader del movimento dei Forconi. Quando si abbattono le frontiere così come hanno fatto, quando entra merce che non dovrebbe entrare se non in una certa percentuale, senza avere praticamente i controlli dovuti, perché c'è la permissività dello Stato che debbono esportare tecnologie, che debbono esportare industria, hanno distrutto la nostra agricoltura, perché noi non possiamo andare in concorrenza a nazioni che pagano 100 euro al mese, abbiamo il diritto di vivere del nostro lavoro e debbono creare le condizioni, non possono continuare a fare patti con le mazzette sui tavoli alle multinazionali che fanno un drenaggio del nostro denaro portandolo via, e qua non resta che solo che miseria. Tutto bene, le multinazionali, ci mancherebbe, a parte il fatto che si svegliano un po' tardi questi forconi, tutto bene, però alla fine io ho la sensazione che questi vogliono soldi da Roma, diciamola in maniera netta. Su. Tra l'altro ci fu una protesta analoga 12 anni fa, sempre dall'AIAS, l'Associazione Imprese Autotrasportatori Siciliani, provocò danni, secondo Confindustria, allora per 700 miliardi di vecchie lire. Allora, presidente Lobello, autotrasporto, prezzo del carburante, questo riguarda tutto il paese, per carità, ma non dovrebbero rivolgersi in primo luogo alla regione Sicilia, che potrebbe fare dei voucher, potrebbe intervenire come altre regioni che sono intervenute a sostegno del credito, penso alle piccole e medie imprese, ed è una regione autonoma? Guarda, mi invita a nozze. Beh, innanzitutto ricordo 12 anni fa quella manifestazione, ero da qualche mese presidente dell'Associazione Industriale di Siracusa, e siccome il blocco riguardò prevalentemente il polo petrolchimico, lo ricordo ancora e ricordo i danni ingentissimi che causò. Questa manifestazione rischia di amplificare ulteriormente questi danni e forse di renderli ancora più rilevanti e in alcuni casi micidiali, perché all'epoca la congiuntura era molto diversa da quella fortemente negativa che c'è oggi. E non c'è dubbio che in questa manifestazione c'è l'ombra di un vecchio sicilianismo, scaricare le responsabilità regionali solo sullo Stato, e questa è una cosa che noi abbiamo sempre combattuto come Confindustria, perché è stata, insomma, la cifra dell'arretratezza culturale della Sicilia, quella che non ha consentito alla Sicilia di mettere in discussione pezzi della sua classe dirigente che non hanno avuto comportamenti virtuosi in questi decenni. Non c'è dubbio che ci sono problemi che può risolvere lo Stato, ma anche problemi che la regione, ripeto, nei vari governi che si sono succeduti negli ultimi anni non ha mai risolto, perché purtroppo noi viviamo una fase di transizione tra un modello prevalentemente assistenziale clientelare e una ipotesi di modello di crescita che però è difficile far passare nel mondo politico, che ancora ha forti nostalgie verso quel modello tranquillo di distribuzione di risorse, di reti clientelari, di consenso spesso comprato e non frutto di qualità politica. E purtroppo mi piacerebbe sentire utile dare ai manifestanti invece una bella piattaforma vera, e cioè che al posto dell'assistenza delle clientele oggi dovrebbero mettere al primo punto all'ordine del giorno le regole, la crescita, la trasparenza dell'amministrazione, la qualità della classe oddio, politica. Oddio, Presidente Labello, si possono tenere assieme le due cose, cioè è giusto che l'autotrasporto, se strangolato dall'aumento dei costi della benzina, dalle pressioni sui prezzi, denunci questa cosa. Però quello che voglio dire è che forse la manifestazione e il blocco lo potevano fare anche davanti al Palazzo delle Aquile o al Palazzo della Regione, certo, della Regione Siciliana. Cioè, così come la Regione Lombardia, che è una regione non a statuto autonomo, riesce nelle pieghe di bilancio a trovare soldi, per esempio, per l'agevolazione per le piccole imprese, fondi e quant'altro. Uno poteva immaginare in Sicilia c'è questo problema drammatico dell'autotrasporto. Bene, la Regione Sicilia trova nelle pieghe di bilancio alcuni soldi per intanto fare respirare l'autotrasporto, poi sotto quale forma, di voucher piuttosto che di fondo, lo decideranno loro. Però mi sembra un po' così sospetto, la colpa è sempre di Roma e Palermo, niente? No, ma lei li vuole lì, Palermo, i trattori Palermo, li vorrebbe di fronte alla Regione Sicilia? Palermo ha grandi responsabilità, io i trattori li vorrei a lavorare per produrre ricchezza. Lei conosce bene le nostre posizioni, noi siamo stati sempre fuori da quella cultura del rivendicazionismo più becero, che è stato, diciamo così, uno degli elementi negativi della Sicilia. Riteniamo che le responsabilità dell'arretramento economico della Sicilia siano in larghissima parte frutto della classe dirigente siciliana, non solo politica, anche di pezzi del mondo imprenditoriale che in passato probabilmente avevano visioni culturali ed economiche diverse dalle nostre. Quindi non faccio sconti quindi a politici, ma anche imprenditori siciliani. Ma certo, la storia siciliana è fatta di patti taciti e di comportamenti clientelari anche nel mondo imprenditoriale. Noi abbiamo, diciamo così, la presunzione di dire che siamo in parte i piccoli protagonisti di una rivoluzione culturale anche all'interno del nostro E su questo mondo. Noi siamo d'accordo, seguiamo l'iniziativa antimafia della regione, della Confindustria Sicilia, da anni, e questo lei Labello lo sa molto bene. Però mi dica, nel concludere, non trovo un po' strano il silenzio della Regione Sicilia, almeno questo, perché parlano i sindaci, che diventano sempre, giustamente, uno fa il sindaco anche un po' capopopolo, attenzione, cioè, ma che tutta la partita sia fatta tra il Movimento dei Forconi e Roma, non è un po', non dovrebbe parlare anche? C'è stata una riunione oggi pomeriggio, si è conclusa credo intorno alle 16 tra il Presidente della Regione e una delegazione dei manifestanti, credo l'AIAS, i trasportatori e i Forconi. Insomma, mi viene un po' difficile ripetere questo nome perché non è, è un nome per è un nome che forse avrebbe cambiato, però è stato un nulla di fatto perché se Lombardo ha detto che solleciterà il Presidente, solleciterà il governo nazionale, però l'effetto è stato quello di intensificare i blocchi della proposta. Ora da qualche ora la Siracusa Catania, la Catania Palermo, che è l'asse centrale di comunicazione fra le due grandi città, è oggetto di blocchi a tutti. Insomma, si aspetta anche di più da Lombardo, quindi, lei Labello? Quindi sì, mi aspetto qualcosa in più. Probabilmente io avrei preteso dai manifestanti, prima di sederci intorno a un tavolo, di sospendere lo sciopero e poi di discutere concretamente come si possono aiutare persone che stanno male. E faccio presente che il settore dell'autotrasporto è un settore che ha grandi difficoltà, però tutte le grandi categorie del settore non hanno scioperato insieme all'AIAS, hanno preso atto delle rassicurazioni fornite dal vice ministro Ciaccio in un tavolo nazionale e hanno rinviato le loro manifestazioni, dimostrando un senso di responsabilità che invece Richighi e la sua organizzazione non hanno, come non hanno avuto 10 anni fa. Di questo è bene che ne vengano a conoscenza tutti, perché vede, domani quando torneremo nelle fabbriche, tranne i cancelli chiusi, la responsabilità è di chi oggi pensa di negoziare non si sa con chi sulla pelle delle aziende e dei lavoratori siciliani. Sì, diciamo, diventa poi una guerra tra poveri, me lo lasci dire. Grazie. Una vera guerra tra poveri. Grazie al presidente della Confindustria Sicilia, Ivan Labello. Grazie. Ed è veramente tutto. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.